Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs e Frey. Ben ritrovate e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Sui 103.1 di Radio Città Fujiko, oppure sullo streaming se ti state seguendo da internet. Oppure ancora in podcast nella settimana successiva alla puntata che va in onda oggi su www.radiovalloon.info. Oggi abbandoniamo calendari civili e non per raccontarvi una storia che prende spunto dalle nostre letture e in particolar modo partiamo dai romanzi che parlano della resistenza inglese contro i tentativi di invasione della Germania nazista. Parleremo solo del 1940 e degli aerei che portano subito alla mente il glorioso film Dunkirk? No, ovviamente. Spazieremo tra storie, aneddoti e tanta bella musica. Entriamo quindi subito nel merito. La Gran Bretagna vede, durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua barriera marina farsi sempre più sottile, con gli aerei e i sommergibili tedeschi che in questa occasione vanno a mettere realmente in isolamento il regno. Ora la minaccia è direttamente sul suolo britannico. Viene oltrepassata la barriera naturale offerta dal mare e la storica supremazia della Marina Imperiale trema. Inoltre, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva trovato un paese che nulla aveva fatto per preparare un riarmo, cullandosi nella politica di appeasement, ovvero di pacificazione con la Germania, che avevano condotto i vari governi del primo dopoguerra. Quando gli aerei tedeschi iniziarono a gettare le proprie bombe su Londra, il rischio di crollare non era così impossibile. La Gran Bretagna però resiste ed è l'unico paese in tutto il continente europeo che ci riesce senza doversi costruire un mito della sconfitta da cui sarebbe nata una resistenza. E allora la resistenza d'oltremanica diventa una resistenza eroica, nutrita dal popolo inglese unito dietro l'Union Jack. Naturalmente per questa puntata non potevamo che proporre una scaletta musicale propriamente inglese o britannica, che dir si voglia. Il pezzo da cui si parte non può che essere naturalmente The Clash London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. such a like, a like. La prima tappa che facciamo in questo viaggio prende una direzione inaspettata e apparentemente contraddittoria, visto che ci fermiamo in quell'unico pezzo d'Inghilterra che dai nazisti fu effettivamente conquistato. Stiamo parlando di quella manciata di isole della Manica di cui spesso si dimentica anche l'esistenza. Un pugno di isole, per l'appunto, lontane dalla costa inglese, che vennero occupate dopo la rotta di Dunkerque e che vennero prese come banco di prova di un'eventuale occupazione dell'intera isola da parte dei nazisti. A Guernsey e nelle isole del canale si misurò l'atteggiamento ambivalente che i regimi di Hitler aveva utilizzato nei confronti della Gran Bretagna. Pur avendoli come nemici, i tedeschi consideravano gli inglesi come dei potenziali alleati naturali. Questa convinzione nasceva non soltanto dalla diffusa simpatia nei confronti di nazisti e fascisti, che era ampiamente diffusa all'interno della nobiltà inglese e in parte della stessa famiglia reale, ma trovava conferma, secondo i nazisti, nelle comuni origini etniche e germaniche dei due paesi. Fatto sta che le isole del canale, quando vennero occupate dai tedeschi, divennero il banco di prova di questa forma di occupazione. Per tal motivo, il regime imposto a quest'isola di pescatori e di contadini fu meno crudele, fra virgolette, rispetto a quanto successe invece nell'Europa dell'Est e in Russia, per non fare che due esempi. A dar voce alla storia di quest'Inghilterra occupata è un bel libro, scoperto grazie alla rubrica Voltiamo Pagina del Breakfast Club, il programma del mattino della nostra radio diretto da William Piana. Il club del libro e della torta di bucce di patate di Guernsey, di Mary Ann Schaffer e Annie Burroughs, edito da Storia nel 2017, con una prima edizione da parte di Sonzogno come il club del libro. Si tratta di un originale romanzo epistolare, costruito attorno al personaggio di Judith Ashton, scrittrice divenuta celebre negli anni della guerra per una rubrica umoristica di corrispondenza con i lettori che si intitolava Izzy Bickerstaff va alla guerra. A fine conflitto, Juliet, alla ricerca di un ingrediente che le permetta di uscire da un vuoto di idee, inizia a ricevere lettere dall'isola di Guernsey e finalmente trova ciò che cerca. Come hanno vissuto questi inglesi sotto l'occupazione? La loro ricetta è stata semplice, una torta di bucce di patate come pietanza principale per un originale club di lettori e lettrici. Bizzarro club del libro, quello di Guernsey, composto da contadini e pescatori semi-analfabeti, che venne fondato grazie a un guizzo di Elizabeth McKean per sfuggire rocambolescamente al coprifuoco imposto dai nazisti nei primi mesi dell'occupazione. Ricostruendo le vicende di questo improbabile club del libro, scopriamo il nostro filo rosso sulla guerra e la Gran Bretagna. Questo romanzo, infatti, se può essere letto come un grande omaggio alla potenza della lettura e al suo effetto balsamico nella nostra vita, è anche un'originale forma per raccontare piccole resistenze al nazismo e la drammatica vita dell'occupazione. All'inizio eravamo speranzosi, certi che entro 6 mesi se ne sarebbero andati, e invece l'occupazione proseguiva. Si faticava a rimediare il cibo e ben presto non ci fu più legna. Il tempo trascorreva tra il grigiore delle dure giornate di lavoro e serate noiose e buie. Eravamo tutti malaticci per il poco cibo e cominciavamo a disperare che le cose potessero cambiare. Ci aggrappammo ai libri e ai nostri amici, ci ricordavano che esisteva anche qualcos'altro. Così ricorda il club Eben Ramsey, uno dei personaggi principali. Vediamo come le vicende dei nostri lettori e lettrici attraversino il dramma della guerra senza mai mollare. Lo strazio dei genitori per la partenza dei bambini come sfollati verso la madrepatria, la strage degli animali da compagnia che non potevano essere mantenuti, l'incubo per l'arrivo dei bombardieri tedeschi, le scogliere dell'isola recintate di filo spinato e cartelli con scritto Verboten che impediscono addirittura anche le semplici passeggiate sulla spiaggia. La fame provata tanto da abitanti quanto dai prigionieri di guerra fucilati per il furto di una sola patata marcia. Oltre a consegnarci un racconto di resistenza, troviamo in questo libro anche uno sguardo delicato sulla guerra, se possiamo così definirlo. Per esempio quello che viene dedicato agli occupanti, che gli isolani riescono a considerare per quello che sono veramente, ovvero sia ragazzi intabarrati in divise ingombranti, timorosi di essere fucilati anche loro quando rubano delle semplici patate da sgranocchiare nei campi degli abitanti dell'isola. E fra questi troviamo anche un interessante personaggio che non compare direttamente, il capitano Christian Hellmann, un capitano dell'esercito nazista appassionato di lettura, che proprio con Elizabeth McKean, la guida del club, evocata in ogni pagina ma sempre assente perché deportata in un campo di concentramento sul continente, avrà una figlia. Un cronista chiedeva a un abitante di Guernsey: qual è stata l'esperienza più difficile che ha vissuto durante il regime tedesco? Per quanto si facesse beffe della risposta dell'uomo, a me parsa perfettamente sensata. Diceva: sapeva che ci portarono via tutti gli apparecchi radio. Beh, quelli di noi che avevano radio segrete sentirono la notizia dello sbarco in Normandia. Il problema era che non dovevamo sapere che era successo. La cosa più difficile fu camminare per St. Peter Port il 7 giugno, senza sogghignare, senza sorridere, senza far niente che lasciasse capire ai tedeschi che io sapevo che erano a un passo dalla fine. Se se ne fossero accorti, qualcuno avrebbe fatto le spese, quindi dovevamo far finta. È stato molto difficile fingere che lo sbarco in Normandia non fosse avvenuto. Con questa citazione dal il club del libro e della torta di bucce di patate, e chiudiamo questa prima parte, ci ascoltiamo un altro pezzo, anche qui siamo marcatamente inglesissimi, ci ascoltiamo i Cox Sparrer con England Belong to Me. Andare avanti in questo viaggio nel racconto della resistenza della Gran Bretagna al nazismo e ai tentativi di invasione ci rivolgiamo ad un fumetto che nasce in Belgio paradossalmente. Stiamo parlando della serie Black and Mortimer, i due personaggi ideati dal fumettista belga Edgar P. Jacobs. Dalla lunga saga del capitano Francis Blake e del suo amico scienziato e archeologo dilettante Philip Mortimer, prendiamo l'ultima avventura ad essere stata realizzata, il bastone di Plutarco, firmata nel 2014 da Yves Saint e André Juillard, due degli autori coinvolti nella prosecuzione della serie dopo la scomparsa di Jacobs. La storia è ambientata nel 1944 e il capitano Francis Blake, pilota del futuristico bombardiere Golden Rocket, viene distaccato dall'aviazione per svolgere una missione segreta: preparare la difesa dell'Occidente dal rischio di una terza guerra mondiale. Difendersi, certo, ma da chi? Lo sbarco in Normandia, di cui nelle pagine finali del volume verrà data notizia, è imminente e non si aspetta altro che la prossima capitolazione della Germania di Hitler. Il vero nemico che si profila all'orizzonte è l'Impero Giallo, guidato dal dittatore usurpatore Bazam Dandu, che con soddisfazione guarda lo sfioramento delle forze europee preparando il suo attacco. Il bastone di Plutarco, sapiente storia di guerra e di avventura, ci può preparare alla lettura di quella che è stata una delle più note e apprezzate avventure dei personaggi di Jacobs, Il segreto dell'Hexpadon. Pubblicato nel 1946, Il segreto dell'Hexpadon è una storia che, non peraltro per la prossimità con la fine del secondo conflitto mondiale, è impregnata dall'immagine della Gran Bretagna come isola della resistenza. Le due storie di Blake e Mortimer, che vi abbiamo citato, respirano proprio dell'atmosfera e del mito della battaglia d'Inghilterra. Non è soltanto per la spettacolarità della realizzazione grafica che in questi volumi venga lasciato un grande spazio alle evoluzioni aeree del capitano Blake, come evidentemente non è un caso che anche la storia che ha fatto nascere la serie di Jacobs veda un dittatore, l'usurpatore Basab Damdu, assumere le movenze e i comportamenti di Hitler, che il pubblico innanzitutto belga conosceva bene. Quindi altro percorso di lettura, altro suggerimento musicale che ci accompagna in questo percorso. E, ancora in Inghilterra, prendiamo la Black Britain finalmente e ci ascoltiamo Linton Kwesi Johnson, musicista che vi abbiamo trasmesso più volte, con Force of Victory. Forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We make a little beat in 1978 and we fight and we fight and defeat the state. And all of we just forward up to nothing will beat. And all of we just forward up to nothing will beat. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We dress in the red and we feeling dread. We dress in the green and we feeling mean. We dress in purple and we're dressed in yellow, we're dressed in blue and we're coming right through. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? We're coming with the army, so don't you get barney. We're coming with the plane, it gonna drive you insane. We're coming with the guns and we're making the rounds. We're coming with the tank and Babylon get bang bang. Them got no ammunition and them got no position. Beg you call a physician for the poor opposition. Them got no ammunition and them got no position. We're the forces of victory and we're coming right through. We're the forces of victory now, what you gonna do? Proseguiamo alla ricerca del nostro filo di racconto del mito perdurante, diciamo, della resistenza della Gran Bretagna contro la Germania nazista, collegandoci con un fumetto. Abbiamo prima parlato di Blake e Mortimer e adesso parliamo di un nuovo fumetto, anche questo di un autore non inglese, di un autore italiano, il nostro Ugo Pratt, autore delle storie del ben noto marinaio gentiluomo di fortuna Corto Maltese. E la storia che vi presentiamo è Sogno di un mattino di mezz'inverno. Piccola premessa, ci siamo permessi una forzatura. La storia di Corto Maltese è ambientata nella Prima Guerra Mondiale, però ci sembrava che calzasse talmente tanto a pennello che per l'appunto abbiamo forzato la mano e l'abbiamo messa all'interno di questo percorso. Nelle prime pagine di Sogno di un mattino di mezz'inverno troviamo Corto Maltese che dorme appoggiato dietro un dolmen nella piana di Stonehenge, mentre poco dietro di lui si tiene un bizzarro conciliabolo. Fra i vecchi manufatti dei Celti si sono dati raduno proprio i protagonisti delle saghe celtiche, il re delle fate Oberon, il folletto Puck, presi a prestito anche dalla commedia di Shakespeare a cui il titolo di Ugo Pratt fa riferimento, la fata Morgana e il saggio mago Merlino, e discutono per affrontare un'emergenza. Nei pressi della baia di Tintagel è stanziato un sommergibile tedesco che deve attaccare lo stato maggiore alleato in riunione segreta nella corvetta dal nome Castello di Rartù. E queste scaramucce fra gli umani, che interesse dovrebbero avere per delle magiche creature senza tempo? Alla provocatoria domanda di Puck risponde agitato il re delle fate. Ah, non ci riguardano? Ma non capisci dunque che con i germani ci arriveranno anche tutti i loro troll, i loro dwarfs, i nibelunghi e i draghi? Siamo in pericolo. Tutti gli elfi e le fate d'Inghilterra dovranno difendersi. Ci vorrebbe proprio Re Artù per fare questa difesa, sospirano maghi e folletti. Ma Re Artù è costretto ad un sonno di 20 secoli. Che fare quindi? Ci si può quindi accontentare di un marinaio e sarà così il nostro gentiluomo di fortuna Corto Maltese a guidare le creature magiche di Inghilterra contro i tedeschi, cioè non i tedeschi, i sassoni e i loro mostri spaventosi. Quest'ultima idea ci porta verso un'altra figura fantastica, che mette le sue arti al servizio della difesa dell'isola. Miss Eglantine Price, che di giorno si prodiga ad ospitare i fanciulli sfollati dalla città e di notte si mette alla prova con voli sulla scopa. Stiamo parlando naturalmente di Pomi d'Ottone e Manici di Scope, il celebre film musicale del 1971, in cui la protagonista è una giovane Angela Lansbury. Dietro le canzoni e i letti volanti possiamo intravedere un'ottima versione del racconto della Gran Bretagna che resiste e della partecipazione di popolo che rese possibile la vittoria. Momento simbolo di questa modalità di racconto della guerra proprio del film è lo sbarco dei nazisti. Dopo dei vani tentativi per finire il corso da strega andati in fumo, Miss Price si trova messa alle strette e insieme ai bambini nel museo storico di Pepperidge High e deve trovare assolutamente una soluzione che li tragga in salvo e permetta di guadagnare tempo per permettere alle truppe di arrivare. Che fare? Nulla di più semplice che lanciare un incantesimo per la deambulazione degli oggetti e far scendere in campo le armature e le divise dei vecchi soldati inglesi. In questa gustosa scena, purtroppo tagliata nella versione italiana del film, vediamo la nostra Angela comandare le sue truppe fantasma mentre cavalca una scopa con il celebre elmetto a scodella inglese e con la bandiera del regno all'attacco dei frastornati e spaventati nazisti, presi a calci da cavalieri senza corpo. Questa scena assoma tutti gli elementi cui abbiamo fatto riferimento. Una persona semplice mette le sue arti, anche magiche, al servizio della difesa del paese e guida ancora una volta i vecchi combattenti alla riscossa, ricacciando i nazisti dall'isola. Il nostro viaggio si conclude qui. I romanzi, i fumetti e i film che vi abbiamo proposto volevano essere un'altra maniera per indagare le tante forme con cui vengono trattati i miti della storia e in un certo senso quello della propaganda. E naturalmente su questo punto che ci vogliamo soffermare, è interessante vedere come in testi diversi, scritti e prodotti in periodi diversi, sia rimasta di sottofondo questa idea dell'isola, che con lo sforzo di popolo, che grazie alla tradizione del suo passato glorioso, riesce a mettere in campo una nuova resistenza nei confronti dell'invasore. Si diceva prima, chiacchierando con Debs, che naturalmente è una resistenza che è stata messa dalla parte dei buoni, dal nostro punto di vista. Però è un racconto questo che è durato molto, tanto da creare alla fine degli anni 70 quel clima asfittico di unità di popolo contro il quale, ad esempio, i primi punk inglesi si scagliavano. Inoltre volevo aggiungere appunto che dietro anche significati buoni o momenti da noi ritenuti positivi per eccellenza come la resistenza, appunto si nascondono vari significati di miti e mitologie. Ma secondo me possiamo imparare anche un'altra lezione, comunque avere un altro livello di analisi per questa, diciamo, rassegna bibliografica, ovvero è stato un modo per rappresentare i vari modi e motivi per fare resistenza. E il primo libro in particolare ci racconta uno dei modi di vivere il quotidiano all'interno sotto un'occupazione tedesca. Nessuno non si racconta la resistenza in senso classico, in senso italiano, del partigiano in armi, ma si racconta il fatto di crearsi uno spazio tolto all'occupazione tedesca in cui la popolazione si rivendica una propria identità, un proprio modo di fare lontano dalle dinamiche dell'occupazione. E così anche gli scrittori che abbiamo citato in qualche maniera raccontano una storia positiva, una storia appunto di resistenza, al di là delle varie interpretazioni che si possono fare in senso nazionalistico, patriottico o meno, è comunque una volontà di raccontare sotto altre forme la storia di chi ha detto no ai nazisti. E devo dire che in questo periodo in cui nel dibattito attuale c'è una fortissima povertà quando si parla di razzismo, resistenza e di storia in generale, riproporre queste forme creative o meno di raccontare o di fare resistenza, secondo noi è una cosa molto importante. Tornando al discorso sul patriottismo e sulle varie modalità di intendere la storia della resistenza inglese, noi ci concediamo di lanciare una canzone che faccio lanciare a Frey. Però prima di annunciare la canzone vi ringraziamo per essere stati con noi in questo percorso bibliografico che potete ritrovare sul nostro sito www.radioballoon.info. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey ed Eps. E naturalmente quindi arriviamo alla canzone, ce la siamo tenuti per ultima questa piccola provocazione, mi rimetto sulle ultime cose che diceva Eps. Ci piace questo tipo di resistenza ma un pochino forse ci sta un po' stretta, quindi naturalmente ci prendiamo i nostri 5 minuti d'adolescenza, ci ascoltiamo un pezzone che della critica a questo tipo di nazionalismo aveva fatto la sua ragion d'essere. Naturalmente stiamo parlando di God Save the Queen dei Sex Pistols. Buon proseguimento di giornata da Frey e Debs, buon pomeriggio. Ciao.